Una buona serata e benvenuti su Rock FM. Venerdì sera lo spazio di Arden Davy, quello suddiviso nella prima e nella seconda mezz'ora, dedicato sempre naturalmente al mondo dell'hard rock e dell'heavy metal, ma con le band o gli artisti solisti su un palco, un concerto, tutte cose ufficiali, gli album più importanti della storia dell'hard rock e dell'heavy metal dal vivo, che sono secondo me la massima espressione di un artista, di una band, il tour, il concerto, soprattutto quando non sono ritoccati poi in studio. E allora la prima parte di quest'oggi, come sempre offerta, anche la seconda del resto, da Mariposa Dischi, Corso Lodi numero 1 qua a Milano, inoltre preparata come tracklist e come biografia della band dal nostro Simone. Si parte con Visions of Europe, questo è il titolo dell'unico album live della band degli Stratovarius, uscito nel marzo del 1998, registrato l'anno prima in due differenti date, esattamente 11 settembre qua a Milano e 14 settembre ad Atene in Grecia. Un doppio CD, ottima produzione, il cui mixaggio è stato curato da Mikko Carmila presso i Finvox Studios, quando ancora non erano così famosi come in questi ultimi due anni. Ha raggiunto la posizione numero 6 nelle classifiche finlandesi. Parliamo quindi degli Stratovarius, la lineup di quel concerto: Timo Kotipelto alla voce, Timo Tolki alla chitarra, Jens Johansson tastiera, Jörg Michael batteria e Jari Kainulainen al basso, che lascerà poi la band nel 2005 per motivi personali ed è stato sostituito da Lauri Porra. Li ascoltiamo col primo brano dall'album in studio, vi cito anche l'album in studio che era Episode, qui dal vivo, dal lavoro Visions of Europe su Rock FM in Arden Davy, Father Time. Yeah! l'album doppio CD Vision of Europe. Abbiamo detto registrato una data a Milano e tra parentesi all'interno delle foto di copertina c'è anche la band con Claudia. Eh sì, Claudia lavorò con loro quella sera, quindi la nostra Claudia è presente anche nelle foto di questo lavoro. Il brano che abbiamo ascoltato, il primo, era Father Time, dall'album in studio Episode, è catturato da questo Visions of Europe. La band finlandese, diciamo che nasce alla fine degli anni, ha avuto un buon successo nel campo del power metal alla fine degli anni 90. Leader del gruppo è il chitarrista e produttore Timo Tolki, che però non è stato il fondatore, visto che il gruppo nasce nel 1984 ad Helsinki e furono fondati dal primo batterista del gruppo, Tuomo Lassila. È nell'anno successivo che Timo Tolki entra in line-up nel ruolo di chitarrista e cantante. Dopo aver pubblicato un demo e un singolo, arrivano al primo album, 1989, si intitola Fright Night, un album che si presenta abbastanza ingenuo e spontaneo e viene prodotto in una sola settimana. Tre anni dopo, 1992, esce però Twilight Time, che vede una certa evoluzione proprio nel songwriting verso un certo power metal e che in patria aveva riscosso all'epoca un buon successo, oltre ad essere stato l'album più importato in Giappone nell'annata 1992. Il primo salto di qualità però la band lo effettua con l'album Dreamscape 1994, che grazie ad ottime recensioni li fece apprezzare anche in Europa, oltre ad essere già fermati in patria. Yeah. Distant Skies, The Stratovarius, su Rock FM nello spazio di Arden Davy dal vivo. Questo era il secondo brano. Continuiamo naturalmente a parlare della loro biografia e della loro discografia. Timo Tolkki, diciamolo, siamo nel 1994, dopo la pubblicazione di Dream Space, è sempre più leader della band e decide di concentrarsi più sulla chitarra che sulla voce, e dopo un'inserzione riescono così a trovare un nuovo vocalist, Timo Kotipelto, che parte della critica associò in principio a Michael Kiske. Esce nel 95 The Fourth Dimension, che presenta un sound molto più neoclassico, una specie di incrocio tra Malmsteen e gli Helloween. Il nome degli Stratovarius diviene sempre più famoso grazie anche alla portentosa voce di Kotipelto. L'ultimo vero e fondamentale salto di qualità avviene con la nuova lineup. In effetti i due membri storici, cioè il tastierista e soprattutto il batterista, che era il membro fondatore come vi dicevo, lasciano la band e al loro posto vengono ingaggiati il batterista York Michael, già con Gravedigger, Rage, Running Wild, e alle tastiere Jens Johansson, ex componente di Malmsteen. La band diventa così una delle formazioni All Stars, con degli ottimi musicisti in tutti i ruoli. Arriviamo al 96, esce Episode, un altro grande album che vede maggiori aperture sinfoniche. Il prossimo brano che andiamo a proporre si intitola Black Diamond, la versione in studio la trovate sull'album Visions. note di Black Diamond, la formazione è quella appunto degli Stratovarius, unico album live pubblicata dalla band nel 1997, è appunto questa Visions of Euro, questo album dal quale stiamo proponendo le canzoni di questa sera nel nostro spazio di Arden Davy. Continuiamo a parlare, eravamo rimasti all'uscita nel 96 di Episode e poi arriva il successivo Vision, forse il capolavoro che li consacra come miglior power metal band oltre a fargli guadagnare il disco d'oro. Il successo gli consente di pubblicare l'unico live album, questo appunto Visions of Europe. Superare un album come Vision è impossibile, forse anche Tolkien se ne rende conto. Quindi viene pubblicato Destiny, un album decisamente più morbido e che fa storcere il naso ai fans della band. Nonostante questo, raggiunge il primo posto in Finlandia, così come il successivo Infinite, che arrivò anche nelle classifiche italiane al 28esimo posto. Forse, capita la staticità della band, decidono di prendersi 2 anni di pausa per cercare nuove ispirazioni e soprattutto per pubblicare degli album solisti, cosa che faranno sia il cantante Koti Pelto che il chitarrista Timo Tolkki. Andiamo ad un altro brano, altro motivo che proponiamo, il dopo Black Diamond Against the Wind, che la versione in studio trovate sull'album intitolato The Fourth Dimension, Against the Wind Stratovarius. Against the Wind, gli Stratovarius con il loro doppio CD dal vivo. Arriviamo anche alle ultime parti delle note biografiche della storia, quindi arriviamo agli anni 2000. 2002 viene pubblicato Elements Part 1, successivamente Elements Part 2. Entrambi i lavori ricevono, diciamo, una fredda accoglienza nel resto d'Europa e cominciano i dissapori all'interno del gruppo, con il conseguente scioglimento che arriva nel 2004. Tolkien nel frattempo comincerà a soffrire gravemente di depressione e dovrà essere addirittura ricoverato. Sempre nello stesso anno viene effettuata, viene annunciata una nuova vocalist, questa volta femminile, Miss Kay, che però non canterà mai neanche una nota, dato che la band si riunisce in formazione originale nel gennaio del 2005. A settembre del 2005 è uscito il loro ultimo album in studio, dall'omonimo titolo ma dal sound un po' differente da quanto proposto in passato. Nonostante tutto, l'album arriva al numero 4 in Finlandia. Tra album solisti, collaborazioni vari, la band sta lavorando comunque ad un nuovo prodotto, la cui uscita è prevista per il 2008. E andiamo a concludere allora l'ascolto e la prima parte del nostro appuntamento di Arden Davy Live con un classico della formazione, Paradise. Many rare species will perish. conclusasi la prima parte di Arden Davy dedicata agli Stratovarius, seconda parte che ci permette di ascoltare una delle migliori hard rock band degli anni 70, Grand Funk Railroad. Il loro nome erano un trio. L'album è il primo dei live album pubblicati, uscito nel novembre del 1970. Precedentemente avevano pubblicato 3 album in studio, registrato in 3 date in Florida nel 1970, precisamente il 22 giugno a Sarasota, il giorno seguente a Jacksonville e il 24 a West Palm Beach. Era un doppio LP, poi è stato pubblicato anche in CD singolo e CD doppio. Ha raggiunto la 5ª posizione delle classifiche americane e ha vinto dapprima disco d'oro, disco di platino e 2 multiplatino, quindi milioni e milioni di copie vendute per questo lavoro. La formazione era una formazione a 3: Mark Farner, voce, chitarra e tastiere, Mel Schachner al basso e Don Brewer alla batteria. La band è americana e più precisamente arrivano dal Michigan e sono stati considerati come all'epoca, negli anni 70, la band più rumorosa d'America grazie ai loro spettacoli. A livello di concerti, da questo bellissimo doppio album che vi consiglio caldamente se amate il sound degli anni 70, l'hard rock di quell'epoca, considerate che la band è composta, come vi dicevo, solo da 3 elementi, andiamo ad ascoltare il brano Are You Ready, apertura del concerto, incluso nel loro primo album intitolato On Time. Let me hear you say, Infuocato inizio per il loro concerto con le note di questa Are You Ready, la formazione dei Grand Funk Railroad, che sono nati, sono attivi diciamo dalla metà degli anni 60, perché il gruppo trae le sue primissime origini addirittura nel 1964 con il nome di The Pack, per poi diventare Terry Knight and The Pack sino al 1969, quando in seguito all'abbandono del cantante Terry Knight, appunto, che era anche un DJ, che è diventato il loro manager nonché produttore, hanno cambiato il nome in Grand Funk Railroad. Dopo alcuni anni di carriera, stiamo facendo un po' l'excursus e la storia di questo nome, Terry Knight se ne va anche come produttore, manager, li abbandona, allora cambiano il nome e rimane soltanto Grand Funk, perdono la parte Railroad. Ritorniamo di nuovo alla musica, tenete presente, abbiamo detto che loro sono una band americana del Michigan, hanno pubblicato diversi album negli anni 70-80, hanno venduto più di 10 milioni di copie e recentemente sono stati ristampati tutti i loro album con in aggiunta anche delle bonus track, oltre ad essere stati già ristampati alla fine degli anni 90 dal mercato giapponese, quindi facilmente reperibile il tutto, anche questo doppio, all'inizio era un doppio vinile, quindi facilmente reperibile anche in CD. Vi dicevo che dal vivo loro davano il massimo e negli anni 70 i concerti live, appunto, l'espressione migliore era quella dei vari assoli, e ne sono presenti moltissimi in questo lavoro, pezzi che durano molto molto a livello di tempo, quindi stravolgevano dal vivo le versioni classiche che si trovano negli album in studio. Così hanno fatto anche per questo brano che andiamo ad ascoltare. Dopo Are You Ready, la versione in studio si trova sull'omonimo album Grand Funk, il brano è Paranoid. Just outside the door. Note di Paranoid in questa lunghissima versione live per il bellissimo doppio live album dei Grand Funk Railroad, formazione che vi dicevo per gran parte della loro carriera, quella migliore, quella degli anni 70 sino agli inizi degli anni 80, sono sempre stati un trio con Mark Farner, che è appunto il leader cantante e chitarrista. Arrivano al contratto con la Capitol Records alla fine degli anni 60, quando alcuni esponenti dell'etichetta li videro dal vivo in un festival ad Atlanta. A quel punto li misero sotto contratto. Nel 69 arriva l'album d'esordio intitolato On Time, che raggiunge la 27esima posizione delle classifiche americane. Ancor meglio va con il secondo omonimo album, Grand Funk, uscito pochi mesi dopo, che arriva addirittura al numero 11. Gli album successivi avranno tutti un grande successo, soprattutto in America, dove si assestano sempre intorno alla quinta, sesta posizione delle classifiche nazionali. Andiamo ad ascoltare ora un altro brano, anche in questo caso una versione piuttosto estesa, di questo motivo dal titolo Heartbreaker, che era anche uno dei singoli dal loro primo album intitolato appunto On Time, Grand Funk Railroad in Hard and Heavy. Yeah. Heartbreaker, questo è l'estratto dalla versione live appunto del live album dei Grand Funk Railroad dal 69, momento in cui pubblicano il primo album On Time, al 1974 quando pubblicano Shine On. Da segnalare che la band vende qualcosa, vi ho detto 10 milioni, ho sbagliato, erano 20 milioni di copie con questi 9 album, comprendete appunto live, ci fu anche la pubblicazione di una antologia nel 1971. Però qualcosa cambia quando per motivi contrattuali decidono di licenziare il loro manager, colui che li ha lanciati, cioè Terry Knight, ed inserire un quarto musicista come tastierista nella formazione. E diciamo che le cose non funzionano più come una volta. Ad esempio l'album Shine On viene prodotto da Todd Rundgren, però non è stato molto apprezzato dai fan della band perché è troppo strano. Il gruppo ritorna, diciamo, un po' sui suoi passi con l'album All the Girls in the World Beware, dove il singolo Some Kind of Wonderful diventa il loro più grande successo a livello di vendite di singoli. Segue poi un altro album dal vivo, Caught in the Act, un altro doppio, e siamo al 1975. Il successivo album, Born to Die, è di nuovo piuttosto fiacco. E così arrivano a Good Signing, Good Planning, prodotto niente poco di meno che da Frank Zappa, e quello sarà il loro ultimo album prima dello scioglimento, del primo scioglimento della formazione. Ora andiamo ad ascoltare una parte di questo brano dal titolo Inside Looking Out, anch'esso fu uno dei singoli dell'album del loro secondo, cioè Grand Funk, ma qui dal vivo addirittura dura qualcosa come 13 minuti, quindi concluderei ora il programma se dovessimo ascoltarlo interamente. Ne ascolteremo una parte di questa versione live, Inside Looking Out, da live album Grand Funk Railroad. I'm sitting here lonely like a broken man. I serve my time doing the best I can. Balls and bars, they surround on me. But I don't want no sympathy. On my mind and hands, I work all day making up a nickel bags in a no! Inside Looking Out. Ripeto, se amate gli anni 70, l'hard rock degli anni 70, questo è un album imperdibile, andatevelo a comprare già domattina dopo aver ascoltato il programma, perché a quest'ora i negozi sono chiusi. Cercatelo, Live Album, ci teniamo in sottofondo, ripeto, questa lunghissima versione. Ora partono a soli vari di Inside Looking Out e arriviamo alla fase finale della storia della band. Dopo il 76 la band si scioglie e si riforma 4 anni dopo con un nuovo bassista, ancora a formazione A3. Pubblicano 2 album che però non funzionano, non vanno bene, non ottengono il successo sperato. La band quindi si scioglie di nuovo nel 1983. Iniziano pubblicazioni di album solisti. Don Brewer diventa produttore anche del primo album non male di una band americana chiamata Gods. Poi nel 1996 la band si riforma nuovamente ed è a tutt'oggi in attività. Sono stati pubblicati diverso materiale di concerti live anche degli anni 2000, però non hanno più pubblicato nulla di nuovi album in studio e non so se lo faranno anche in futuro. Chiudiamo l'appuntamento di questa sera di Hard and Heavy, dedicato prima parte agli Stratovarius, questa ai Grand Funk Railroad. Ringrazio voi per avermi seguito, ringrazio Simone per aver preparato tutte le note biografiche e la tracklist, vi auguro buon weekend, vi lascio con una parte di un altro brano lunghissimo che dura anch'esso 12 minuti, si intitola TNUC, versione in studio si trovava nel primo album On Time, questa è quella live dei Grand Funk Railroad. Da Marco Gravelli è tutto, buon weekend, ciao!